Amore. mio padre, un altro e questi è il re, lei che adoro va rapita, la sposa m'è promessa. Erschauen war des sichern Rohrs. Oh! Violetta, oggi per me lasciò tua vizie, onori e le pompose feste, o vagli omaggio avvezza, vedi a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi aveni luoghi, tutto scorda per me. Spontaneo corso infamia, io vissi in tal'errore, ma il turpe somma frangere, il vermi valero. Per poco il sero acquetati, o grido, grido dell'onore, ma dai se purra vindice, quest'onta l'amero, o mio rosor, o infamia, o si quest'onta l'amero, si l'amero, o mio rosor, o infamia, o si quest'onta Thank you. vita e quando ciel ne brevi istanti prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse chiusero l'uscio e la magion deserta e dove ora sarà quell'angiol caro colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti colei si pur al cui modesto sguardo quasi spinto a virtù talor mi credo ella mi fu rapita per te no. Yeah. 大音精华，声系天下，北京人民